Anche quella vorrei immeritarti. Una volgare impresa destinarti vorrei. Che mi rispondi? Ecco il braccio, ecco il ferro. Guarda che il tuo periglio non sarà lieve. Ehi, non sarà maggiore. O della tua bellezza, o del mio amore. Vattene, e pria che il mio pensier ti scopra. All'impegno rifletti, al rischio bada, e consiglio il tuo cor con la tua sposa.